Attenzione, punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Allora, iniziamo oggi il racconto Nazero 13 facendo un attimo una correzione. Quelli che sono stati chiamati fino ad ora Media Taskbox per una facilità di lettura vengono rinominati come Media Corps. I tre Media Corps, anche se inorriditi dalla sanguinosa battaglia, non perdono l'occasione di filmare e fotografare tutto. Ad un certo punto, dopo aver fatto scendere le abilità di tutti i Taskbok, i 10 automezzi si schierano in cerchio, come a voler intrappolare gli zombie che hanno avuto la meglio su circa un centinaio di Taskbok. Alcuni si sono salvati perché hanno optato per la trasformazione in topo, che per Nomma può essere decisa solo da un'autorità di alto grado. Nemmeno gli uomini topo, però, si aspettavano di andare in guerra contro un gruppo di zombie e quindi hanno pensato di disobbedire alle loro norme per mettere in salvo la pelle. I Media Corps non ci hanno capito nulla, non sono riusciti a notare la trasformazione degli uomini topo perché questi sono stati ingoiati nel folto gruppo di zombie durante la lotta. Gli zombie, accerchiati da blindati che hanno gli abbagliati accesi per accecarli, sembrano impauriti e lanciano urla agghiaccianti. Sembra che la battaglia stia ormai per finire, con gli zombie intrappolati nel cerchio di blindati che si stringe man mano verso il centro come per schiacciarli. Thomas, però, non si fida che sia finito tutto così. Non usciamo di qui fino a quando non vediamo morire l'ultimo di quei cosi. Non ci penso nemmeno ad uscire da questa casa se non vedo arrivare un esercito di Taskbok, risponde Frank, che non riesce a star fermo dal terrore. Però l'auto ce l'abbiamo proprio ad una decina di metri dall'uscita del palazzo, potremmo approfittarne se ricominciano a combattere. E mentre propongono la fuga, Eric smonta la telecamera ed inizia a infilare i cavi in una borsa. Eric, scordatelo! Hai visti quelli lì là fuori? Hanno divorato circa 100 Taskbok in poco meno di 15 minuti. Pensa se prendono noi. Non avremo nemmeno il tempo di dire aiuto, che già saremmo finiti nel loro stomaco. Thomas, tra i tre Media Corps, sembra quello che ha la mente più lucida in quella situazione. Gli altri due, che hanno dovuto alla più giovane età, lo ascoltano con attenzione perché già in qualche altra occasione Thomas ha tirato fuori dai casini i propri colleghi. Facciamo così. Io finisco di fare altre due foto e voi due, intanto, recuperate quante più cose possono servire da armi nel caso riusciamo ad uscire da questo cazzo di condominio che inizia a non sopportare più. Svuotate anche la cambusa della casa che ci potrebbe servire nel caso rimanessimo bloccati da qualche altra parte. Per favore, Thomas, facciamo tutto, ma scappiamo via il prima possibile da qui perché voglio tornare a casa dai miei figli. Eric, io a 50 anni suonati non ho figli, ma per mia scelta personale, ma il culo da qui ce lo voglio portare via anche io, anche perché non fa parte nelle mie ambizioni il diventare una fetta di prosciutto da far sbranare a questi pezzi di merda. Dopo le parole di Thomas, Eric e Frank si mettono subito alla ricerca del necessario. Intanto Thomas tiene sotto controllo con l'obiettivo della macchina fotografica la situazione tra Taskbok e zombie. Coltelli da cucina, attrezzi vari vengono portati nel corridoio, infilati in uno zaino da campeggio trovati nella casa. I viveri vengono invece infilati nei classici sacchetti da spesa. All'improvviso un urlo terrificante risuona in tutto il quartiere. Uno degli zombie che tiene in mano un braccio staccato ad un Taskbok e nell'altra la mitraglietta che molto probabilmente impugnava quel braccio è riuscita a salire sul tetto di uno dei blindati. Alzando la mitraglietta al cielo, lo zombie urla vendetta. Poi stacca con un morso deciso un pezzo di carne da braccio che tiene stretto come un trofeo ed inizia a sfondare il tetto del blindato. In meno di una manciata di secondi gli zombie si lanciano all'assalto dei blindati che ora tentano di scappare in retromarcia andando a sbattere contro muri, auto e lampioni della luce. Gli zombie iniziano a sfondare i parabrezza a colpa di mitra recuperate dai Taskbok morti in battaglia. Un Taskbok viene preso per i capelli e fatto uscire dal mezzo attraverso il foro fatto da parabrezza. Un altro ancora viene portato sul tettuccio di un'auto dove viene praticamente prima svuotato di ogni organo e poi divorato. Almeno 8 blindati su 10 restano bloccati ed i loro conducenti scuoiati. Correte, presto, sono ripartiti gli scontri! Thomas avvisa i suoi due giovani colleghi che in 2 secondi si fiondano sulla terrazza per vedere quanto sta accadendo. Ma dove vanno quei due? Frank ha appena notato i due blindati superstiti scappare dalla zona nord. Lo sapevo che non c'era da fidarsi dei Tarspok, figli di puttana. Eric in preda al panico più totale. Trema, urla e piange terrorizzato. Thomas cerca di calmarlo, ma non ci riesce. Così prende i treppiedi della telecamera e con un solo colpo alla testa stende il suo collega che cade svenuto a terra. Bravo coglione, ora siamo in due, ma che cazzo ti salta in mente di fare? Non ti preoccupare, sono svenuto ed è meglio così, perché sarebbe morto d'infarto se si fosse trovato uno di quei cosi davanti e poi con il suo pianto del cazzo rischiava di farci sentire. Dove lo mettiamo? Sul letto, ovvio. Thomas e Frank stendono il loro collega sul letto, dopodiché il più anziano va in cucina per vedere se c'è un po' di ghiaccio da mettere sulla nuca di Eric. Un dizionario della bestemmia inizia ad essere recitato dalla A alla Z da Thomas, perché ovviamente il frigo è spento perché manca elettricità in tutta la zona. Allora il vecchio Medecops, aiutato da una candela che ha trovato nello zaino che i due suoi amici avevano preparato per la fuga, inizia a rovistare nelle altre camere per trovare qualcosa per medicare Eric. Mentre l'uomo rovista in un cassetto sente dei passi veloci che risalgono le scale del palazzo. Thomas resta per un attimo impietrito, poi si ricorda che hanno lasciato la porta di casa aperta nell'eventualità fossero tornati i proprietari. Il Medecops, in un gesto istintivo, lascia cadere la candela a terra e corre al buio lungo il corridoio verso la porta. Thomas, tutto ok? Il silenzio e poi un urlo. Thomas! Thomas! Che cazzo succede? Frank prende dallo zaino la videocamera piccola di Eric, attiva la visualizzazione notturna e spegne la luce, ormai morta, della torcia a LED. Il Medecops inizia a percorrere il corridoio guardando attraverso il mirino della videocamera. Appena girato il corridoio, entra nel salone, attirato da alcuni rumori che somigliano a quelli che emette un cane mentre mangia dalla ciotola. Segue attraverso il mirino della videocamera i rumori fino a che non vede i piedi tremanti del suo collega disteso per terra in una pozza di sangue e due zombie inginocchiati che banchettano staccando a morsi pezzi di carne e budelli dalla vittima. Pochi secondi e l'obiettivo della videocamera, in uno scatto naturale, punta prima al soffitto e dopo sul viso di Frank, che ha lo sguardo perso nel vuoto. La testa di Frank si trova a meno a 2 metri dal proprio corpo, in una pozza di sangue che ininterrottamente fuoriesce da essa. Yeah. Radiazione, diretta d'azione 3 giugno 2014, oggi è un lunedì, anche se martedì è un lunedì perché la diretta di ieri, come chi ha seguito anche attraverso il sito, è stata spostata ad oggi per motivi personali, e quindi oggi diretta d'azione con lettura di I Sabotatori di Edward Ebbey. E poi la controinformazione, ovviamente, e la musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@radiocentrale.org per chi vuole mandare scritti, comunicati da pubblicare sul sito di Radiazione, anche iniziative, anche consigli per la stagione prossima, perché con questo libro penso che porteremo a termine la sessione annuale di Radiazione, poi ci sarà la pausa. Per poi ricominciare una ci sarà una pausa. Andiamo in ferie, ma ricordiamo che la connessione ogni diretta cade, quindi per una volta cadeva tra le 17.15 e le 17.20. Ora da venerdì hanno cambiato orario, quindi vediamo a che ora cade. Noi pensiamo, siamo in orario, visto che ci auguravamo che ieri, lunedì 2 giugno, potessimo vivere una nuova Rammstein, la ricordate, no? Quando la truppa acrobatica dei jet italiani fece la cazzatella e fece un po' di morti schiantandosi al suolo. Ieri pensavamo che facesse un piacere a tutti noi, purtroppo non c'è stata, quindi adesso fra poco cadrà la connessione. E quindi tra poco, ora appena detta questa cosa, cadrà subito la connessione. Non siamo noi, non siamo. Se cade la connessione, ovviamente riaggiornate la pagina fino a quando non riascoltate la radio, il tempo che noi ce ne accorgiamo e riaccendiamo il tutto. Allora, questo era per la mail, invece blog, per il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina download, dove potete riascoltare anche le dirette d'azione attraverso i podcast nella categoria Ascolta le dirette d'azione. La radio trasmette sul server anarchia.net e sta a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo sempre e comunque per l'aiuto che ci ha dato, per rimettere sul sito e tutta la radio. Un casino, poi con un ignorante come me in informatica capirete la cosa. Troppo buono. Troppo buono, troppo buono. E allora questi sono per gli indirizzi utili. Ricordiamo che c'è anche la sezione, il sito in croato di Radiazione, portato avanti dalla compagna, che ogni tanto avete sentito, ascoltato attraverso le dirette d'azione qui insieme a me. Basta cliccare sul banner e vi andrà per la sezione in croato. Non lo so se ci capite qualcosa, però comunque esiste anche la sezione in croato. Sicuramente in Croazia la leggono, nella ex Jugoslavia, quindi. Allora, ora mandiamo un brano. Loro sono Cocktail Rain con il brano The Moment, e poi dopo si torna qui, prima con un breve riassunto che dalla prossima volta, diceva Marcello, toccherà fare anche a me per quanto riguarda la 013, altrimenti ci si perde. E poi dopo con il nuovo capitolo di I Sabotatori, Edward Ebbey. We'll be right back. E allora, questi erano i Coptic Rain con il brano The Moment, radioazione, diretta d'azione, martedì 3 giugno 2014. Prima di fare il consueto riassunto delle puntate precedenti del romanzo I Sabotatori di Edward Abbey, vogliamo spendere due parole ancora, diciamo, sulla giornata di ieri, perché ieri, oltre, diciamo, al mancato Rammstein 2 su in Via dei Fori Imperiali a Roma, abbiamo purtroppo dovuto assistere anche, diciamo, alla lamentela dei cosiddetti due prigionieri patrioti italiani in India, i due Marò, che si sono lamentati, hanno addirittura invocato una loro presunta innocenza. Non possono tornare qui in Italia da 2 anni, segregati in qualche resort molto comodo di uno stato del sud dell'India, e ricordiamo che questi Marò hanno fatto il tiro a segno su dei pescatori indiani. Noi ci auguriamo che tornino nei barattoli. Nei barattoli, nei container che loro stavano difendendo. Quelli delle ceneri. E soprattutto che ci auguriamo che veramente la si smetta con questa presunta enfasi patriottica, e che non ci riempiano le giornate comunicazione mainstream, sappiamo benissimo, di simboli, simboletti, appelli, appellini, perché sono due persone. Se dobbiamo pensare a chi invece realmente è dietro e sta vivendo una condizione di segregazione carceraria non solo in Italia ma in diversi contesti mondiali, noi siamo vicini a questi ultimi e sicuramente siamo lontani anni luce da questi infami Marò. Ma torniamo adesso, dopo questa breve digressione per noi, diciamo, necessaria, proprio perché ieri per vicende, diciamo, personali non siamo riusciti ad andare in onda e a festeggiare o a non festeggiare la Repubblica Italiana. Ricominciamo a leggere invece le avventure di una batteria di quattro persone, di sabotatori. Oramai penso che i nomi li conosciate: Seldon Smith, George Washington Hydack, il dottor Service e Bonnie Habzug, questa figura femminile che sta per portare un po' di scompiglio in queste vicende. Ma questi sabotatori negli Stati Uniti centrali hanno già attaccato un paio di obiettivi che stanno snaturando le montagne, il contesto ambientale di quel territorio, hanno distrutto una arteria autostradale, hanno attaccato un'arteria ferroviaria che collegava una miniera a cielo aperto di carbone con una centrale elettrica, e adesso si sono riposati e adesso stanno per iniziare un sabato sera in America. Tempo di manovre logistiche. Tutti concordarono, compreso Doc, che Doc stesso dovesse tornare ad Albuquerque a prendersi cura per un po' dei suoi pazienti, incassare i loro assegni, gli assegni dei pazienti, e rifornire le scorte della batteria. Bonnie non aveva voglia di tornare in ufficio, e chi poteva fargliene una colpa? Voleva stare con Smith e Hydack per la prossima avventura, quale che essa fosse, ma Doc non era in grado di guidare una macchina, o fingeva di non esserlo, o in qualche misura non aveva assolutamente voglia di farlo. Fu quindi necessario accompagnarlo in auto all'aeroporto più vicino, in questo caso quello di Page, perché potesse prendere il volo che lo avrebbe riportato in New Mexico. E se ne andò controvoglia, borbottando, bevendo troppo, gli occhi umidi di commozione, abbracciando i 3 compagni, Smith per primo. «Smith», disse, «vecchio Seldon Sin, affido a te questi 2 bambini, sono pazzi, no? Tu lo sai, ma al tempo stesso sono innocenti e indifesi. E in questo menage, il nostro menage, il ruolo di adulto spetta a te, e quindi abbi cura di loro». Smith diede qualche pacca sulle spalle di Doc. «Ci comporteremo bene, Doc, non ti preoccupare, fai in modo che George non metta a repentaglio la sua vita». «Lo farò, compare. Tieni d'occhio anche Bonnie, ho l'impressione che si stia prendendo il morbo di Hydack. Terrò tutti e 2 gli occhi su di lei, non temere, Doc». «Bravo uomo», rispose questo. «Ricorda, per quanto sia duro il cammino, è sul duro che si costruisce il nostro scopo. È giusto, giusto, una dannata cosa dopo l'altra, e Dio è con noi o viceversa. Noi non ci opponiamo, ad una macchina folle, Seldom, che stritola le montagne e divora gli uomini. Qualcuno deve provare a fermarla. Questo qualcuno siamo noi, soprattutto tu. Ci puoi scommettere, Doc. Ma non è Dio che è con noi, neanche noi con loro. Adesso, per favore, tira su un po' di soldi e poi torna qui di corsa, Smith sorrise. E non dimenticare di comprare le houseboat e i delfini ammaestrati. Dio mio, disse Doc, sei tutto pazzo. Il prossimo, George Washington Hyduck, muy hombre, muy macho pendejo, si fa avanti. Il dottor Service lo trascina un po' in disparte e George disse: vieni qui un attimo. È tutto ok, Doc, so che cosa stai per dirmi. Hyduck, tarchiato come un barile di birra, puzzolente come sempre di sudore, terra e birra, sembra quasi... no, è... in effetti è un po' ansioso. Ascolta, Doc, dice. No, ascolta tu. No, ascolta tu, Doc. Quella non era una mia idea. Io sono stato il primo a dire che lei non la volevo, ci crea solo dei problemi. Doc sorrise. Il braccio intorno alle muscole, a quelle spalle muscolose di Hyduck, come abbracciare un linebacker. L'orso e il bufalo, confusi. George dice: ascolta attentamente, tra 6 mesi compio 50 anni e sto per cominciare la parabola discendente. Bonnie lo sa, prendila, dai, tocca a te, prendila con te. Io non la voglio, non voglio donne. Non mentirmi, George, prendila, se puoi fallo, se sei abbastanza uomo, prendila e avrete la mia benedizione. Non c'è niente di cui dobbiamo discutere. Hyduck fissò per terra in silenzio, in realtà imbarazzato. Chi la desidera veramente è il vecchio Seldom. Smith, disse Doc, ha la testa sulle spalle, un uomo di gusto e di buon senso, non è un folle come te, lasciala a lui allora e fai la tua bella figura da stupido. Hyduck allora arrossì. Non ho nessuna intenzione di lottare per averla, ho cose molto più interessanti da fare. Non c'è niente di più interessante di una donna, George, non a questo mondo. Girarono in tondo in un secondo circolo più piccolo mentre sull'aereo di Doc si procedeva al rifornimento di carburante, al controllo dei turbocompressori, al fissaggio della coda e al posizionamento degli alettoni, i flap. Il sole estivo dell'Arizona investiva tutto quanto con la sua luce. Aeroporto, centrale elettrica, aeroplano, cittadini di pace, passeggeri, auto parcheggiate, spettatori e fannulloni. E fra tutti la più graziosa, quella con cui il sole era più generoso, era Miss Bonnie Hapzook. E Doc Service lo sapeva, conosceva il significato di un simile tesoro. Perché ogni uomo di sana naturale devozione si sarebbe inginocchiato davanti a quel santo santuario, latrando come un cane ferito e leccando le punte delle sue 10 unghie rosa con la bietta generosa adorazione della propria lingua. Smith lo sapeva, si stava sciogliendo come un ghiacciolo, proprio come gli aveva sempre detto il babbo. Lo puoi mangiare con un cucchiaio. Gli indiani lo sapevano, allungati nell'ombra, e la osservavano come conigli affamati, ridendo, raccontando le loro barzellette del Pleistocene, le migliori. Soltanto Hyduck, testardo e stupido, sembrava non essere toccato dalla maggiore consapevolezza. It's all right, disse Doc, va bene, ho sistemato tutto. Adesso saluterò Bonnie. Lei pianse un pochino. Calma, calma, tesoro, ti sta colando il mascara, non piangere. Naturalmente lui avrebbe sofferto se non lo avesse fatto. Le accarezzò i capelli, la curva dolce del fondoschiena e i fianchi. Gli indiani ridacchiarono. Ma che si fottessero quelli? Selvaggi dell'età della pietra che vanno in giro con i loro pick-up, mangiando Rainbow Bread e Hostess Twinkies, indossando i loro cravattini di cuoio e i televisori sintonizzati ogni fottuto pomeriggio su Mr. Rogers Neighborhood. Non sto piangendo, disse lei mentre le sue lacrime inzuppavano il nuovo e raffinato gilet scamosciato di Doc. Sarò di ritorno tra un paio di settimane, disse lui. Bada a quegli idioti, assicurati che prendano le loro pastiglie di vitamine e si lavino i denti dopo mangiato. Stai attenta che George non beva fino ad ammazzarsi. Fai in modo che Seldon Sin torni di tanto in tanto a trovare le sue mogli. Certamente, Doc. E singhiozzò tra i risvolti della sua giacca, i seni schiacciati contro la sua pancia imponente. E stai attenta. stai attenta che non ti venga mai in mente di dire a Giorgi che hai dovuto farti aiutare con il detonatore. Lui non lo sa. Cerca di esercitare un po' di controllo su questi maniaci. Non piangere, tesoro, io ti amo, ma mi stai ascoltando? Lei annuì tra le sue braccia, sempre in lacrime. Stai lontana dai guai. Fino a che non torno, fai quello che devi fare, ma assicurati che nessuno si faccia male. E sta attenta a non farti beccare. Lei annuì. Il pilota scaldò i motori. Il rombo assordante si propagò a ondate verso Tower Butte, Vermilion Cliff, Lone Rock e più in là, un insano clangore di pistoni folli. I passeggeri stavano sfilando dall'uscita, cowboys con le valigette, ricchi hippie più imperlinati e bendati di Utah Paiute, sulla via che li portava sulle rive del Gange a cercare un nuovo guru. Funzionari dell'ufficio, richiami più tardi, con le teste simili a cipolle da tasca e gli occhi come palline di velino per topi, che stringevano i cappelli a tesa floscia attratti dal risucchio delle eliche. Dolci vecchiette in scialle dirette a Phoenix per fare da babysitter ai bambini. Altro divorzio in vista per Febesiu. Metà degli abitanti di Patch quel giorno sembravano diretti da qualche altra parte, e chi mai poteva rimproverarli? Qualunque città con più battisti che indiani, con più bevitori di birra che di vino, con più barche a motore che canoe in corteccia di betulla, con più sole che sensibilità. Adesso è meglio che vada. Le baciò la faccia rigata dalle lacrime, la bocca fresca, le ciglia folte dei suoi occhi chiusi. Doc, sì, ti amo ancora, Doc, tu lo sai. Certo, Bonnie, ci vediamo. Sicuro. Il dottor Service, zainetto, giornale e sobrabito in mano, si affrettò verso la passerella, frugando alla ricerca del biglietto. Si blocca da perfetto commerciante in cima alla scaletta, voltandosi a salutare non un addio, ma un arrivederci per ora. Ciao, i suoi amici e compagni. Bonnie, appoggiata alla secca struttura di Seldom Sin, si tampona le guance con una bandana rossa e ricambia il saluto. questi erano Tito and Tarantula con il brano Angry Cockroaches, dopo la prima lettura per oggi di I Sabotatori di Edward Abbey. Ora passiamo alla notizia di controinformazione, una notizia fresca riguardo a stamattina, dove a Torino c'è stata un'operazione repressiva con misure cautelari contro gli occupanti dell'asilo occupato e via Lanino. Leggiamo questa informazione direttamente dal sito di informazione.info. Dalle prime ore della mattina di oggi, 3 giugno 2014, è scattata un'operazione repressiva orchestrata dalla PM Pedrotta e dal PM Frammassone Rinaudo contro diverse realtà conflittuali anarchiche. Per ora le notizie sono frammentarie, ma sarebbero in corso 25 perquisizioni a Torino e in Piemonte, tra cui quelle dell'asilo occupato e dell'occupazione abitativa di via Lanino, oltre alla notifica e all'esecuzione di diverse misure cautelari, 11 in carcere, 6 domiciliari, 4 obblighi di dimora, 4 divieti di dimora, 4 obblighi di firma. Vi sarebbero complessivamente 111 indagati e reati contestati vanno dalla devastazione e saccheggio a vilipendio alla nazione, passando per l'invito all'insurrezione armata contro lo Stato, sequestro di persona, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e occupazione di edifici. La scelta strategica degli inquisitori non prevede l'utilizzo di strumenti quali reati associativi, bensì il concorso nella commissione dei suddetti reati. Fondamentalmente un'inchiesta è bastita con la pretesa di compiacere i grandi poteri della città, palazzinari, banchieri, cementificatori e il Partito Democratico, che notoriamente a Torino si sovrappongono e si miscelano senza soluzione e continuità. Non solo a Torino. Non solo a Torino. Le accuse mosse contro compagni e compagni riguarderebbero principalmente le pratiche di resistenza agli sfratti dagli picchetti all'occupazione della sede degli uffici ufficiali giudiziari, i cortei spontanei e gli attacchi alle sedi del PD degli ultimi mesi, nel tentativo di sedare a colpi di misure cautelari chi in diversi quartieri cittadini sta promuovendo l'auto-organizzazione di sfruttati e sfrattati nella riappropriazione di spazi abitativi, nella lotta contro la gentrification, contro la speculazione edilizia e contro i soggetti politici e finanziari che saccheggiano ovunque le nostre esistenze. Poi c'è un aggiornamento: dopo ore di resistenza su tutti gli sbirri lasciano l'asilo occupato e anche via Lanino, resta in mano agli occupanti e alle famiglie che le abitano. L'invito è quello di passare via Alessandro 12, perché è di Torino, perché continuare a sistemare la devastazione lasciata dai servi in divisa. Ci sarà un'assemblea ora, praticamente c'è un'assemblea in corsa all'asilo occupato alle 17:30 e poi a seguire ci sarà una cena benefit per gli arrestati e gli indagati. E se non sbagliamo, ultimamente proprio in Piemonte il PD ha vinto le elezioni locali regionali, che no, perché c'era stato il nome del sindaco. No, ma adesso c'era stato il leghista che faceva lì e adesso è tornato il PD, manco a te, una settimana e 10 giorni. Questo accade dopo la caduta del reato per terrorismo ai 4 arrestati della Notav, e non a caso dopo questi giorni c'è stata un'altra sentenza che ha visto altri compagni messi a processo con l'accusa di terrorismo, sentenziati pure perché hanno avuto una sentenza con delle condanne, e quindi Claudio Alberto, uno dei 4 notav arrestato pochi mesi fa a novembre, se ricordo bene, si è visto appioppare insieme ad altri il reato per terrorismo. Questo per fare la pari con la caduta del reato associativo. E ora questa qua, evidentemente a Torino non si respira aria buona ultimamente, questo si sapeva. La nostra solidarietà per i compagni arrestati. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono SS to Arasaka con il brano Selvector, e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Abbey. Thank you. 17:54 quest'oggi siamo ancora in piedi, quest'oggi ancora, siamo ancora ora in piedi, ce la chiamiamo, chissà, ma continuiamo. Un sabato sera in America, guardarono l'aereo rollare sulla pista, i motori ululare come bestie in sofferenza, videro le forme aerodinamiche compiere ancora una volta la loro magia, le ruote sollevarsi dall'asfalto e ritirarsi nel nido delle ali, mentre il goffo uccello di latta balzava oltre il cavo dell'alta tensione, mancandolo anche stavolta per un soffio, alzandosi e virando verso lo sguardo cieco del sole. Sentendosi vagamente amputati, i quattro si ritirarono a fare il punto nei bui recessi di un bar familiare di Page. Happy hour. Il buco era pieno di uomini assetati, compreso un tavolino attorno a cui facevano cerchio sei cowboys con la faccia di cuoio e le loro fidanzate con le pettinature vaporose. Bonnie infilò una moneta nel jukebox, scelse i suoi preferiti, prima una band inglese Nouveau Riche di hard rock, che viene sopportata con pazienza. Poi un altro gruppo rock, sovrastato dalle strida esteriche di una cantante con pretese afro, una Janis Joplin di disgraziata memoria. Era troppo, il cowboy più vicino si drizzò in piedi, 1,80 m abbondante, ci mise un po' per distendere tutta la sua altezza e camminò su gambe come compassi fino al jukebox e gli ammollò un calcione forte. E quando vide che non accadde nulla, lo scalciò di nuovo ancora più forte e questa volta funzionò. La puntina scivolò trasversalmente contro la grana scanalata del disco in vinile. Un odioso stridio amplificato elettronicamente si insinuò come un'illuminazione auricolare attraverso orecchie, cervelli e sistemi nervosi centrali di tutti i presenti. Anche gli uomini forti rabbrividirono. I riflessi del jukebox attivati eseguirono la procedura servomeccanica. Il braccio afferrò l'odiato disco e tornò a infilarlo nella rastrelliera muta. Mentre il cowboy infilava la sua moneta, ci fu un momento di quella roba preziosa che è il silenzio. Ma fu solo un momento. Ehi! Strillò Bonnie Abzug nel suo più grezzo abbaio del Bronx. Quello che hai preso a calci era il mio disco, gambe storte, figlio di puttana. Il cowboy la ignorò educatamente, studiando con calma la console, schiacciò il pulsante di Merle Haggard, quello di Hank Snow e, per Dio, quello di Andy Williams, e mise un'altra moneta. Bonnie saltò su. «Rimetti la mia Janis!» Ignorandola, il cowboy studiò altre tre scelte e Bonnie gli si appoggiò contro, tentando di spostarlo con la spalla, e lui le diede una spinta. Hydak si alzò con 3 bicchieri di Jim Beam e 1 litro di Coors che gli sgorgogliavano nello stomaco. Sentiva che il momento era arrivato. Tirò in piedi il suo 1,78 m, raggiunse il cowboy e gli diede un colpetto sulla spalla. Il cowboy si voltò. «Ciao!» fece Hydak sorridendo. Io sono un hippie!» e fece partire un diretto allo stomaco. Il cowboy barcollò all'indietro contro la parete. Hydak fronteggiò gli altri 5 cowboy e le loro giovenche al tavolo. Anche loro si stavano alzando tutti i sorrisi. Lui cominciò il suo numero. «Mi chiamo Hydak, Rogi, George Hydak, e sono felice di essere qui. Ho sentito dire che la rivoluzione sessuale è finalmente arrivata a Page, Arizona, capitale della contea delle teste di cazzo di Coconino. Finalmente si scopa, ho sentito dire che adesso persino i cowboy lo possono fare, ho sentito...» Beh, questa volta c'erano i cowboy sbagliati, merda. Hydak si riprese gradualmente, dolorosamente, attraverso sogni e ricordi, una confusione di incubi e allucinazioni nel mezzo di un lancinante mal di testa, e si riprese per ritrovarsi in quella che sembrava essere, Cristo santo, una stanza di motel. Con mani gentili sulla sua fronte e il suo viso, che detergevano le sue ferite con un tiepido panno umido, il volto di lei, dolce e amabile come quello di un angelo, lo guardava, quel volto, attraverso la nebbiolina rosa di dolore e pena. «Idiota», sembrava stesse dicendo. «Avresti potuto rimetterci le penne, erano in 6 e noi soltanto in 3». «Tre? Chi? Sei? Di che?» «Povero vecchio Seldon», proseguì Bonnie. «A momenti le prendeva anche lui per tirarti fuori da là. Volevano uccidere anche lui». «Chi?» Cercò di tirarsi su Hydak. Lei gli si allungò sopra, spingendolo indietro tra i cuscini. «Rilassati, non ho finito». Estrasse un frammento di vetro dal taglio che aveva sul cranio. «Dovremmo fargli dare qualche punto». «Dov'è Seldon?» gracidò. «In bagno, che sta curando i suoi di lividi, ma sta bene, non ti preoccupare per lui. Quello conciato peggio sei tu, ti hanno sbattuto la testa contro l'angolo del jukebox». «Il jukebox? Jukebox? Ah!» Adesso cominciava a ricordare. Il disco di Janis Jalopai, una zuffa in un bar, cowboy alti 3 metri con gli occhi da rapaci che lo fissavano dall'alto. Certo, i cowboy sbagliati. 18 di loro, forse 40, tutti raccolti in quel locale. Seldon senza mettere emerse dal bagno, un asciugamano avvolto intorno al torso asciutto su quella che chiamava la sua faccia una smorfia, una palpebra viola e il setto apparentemente deviato. le narici imbottite di cotone idrofilo imbevuto di sangue. A vederlo sulle sue gambe estenuate sembrava più che mai una specie di uccello, un condor, chiacchierone forse, o un avvoltoio biondo dei canyon. «Qual è il film del lunedì sera?» chiese accendendo il televisore. «Il film del sabato sera», dice Bonnie. Trascorsero la serata nella scatola di stucco dello Shedai Rest Motel, un vecchio alloggio economico, niente piscina, orgoglio di Page. Il condizionatore dell'aria brontolava, il televisore borbottava senza sosta. Smith cucì la ferita sul cranio di Hydak e la coprì con un cerotto. Lui e Bonnie sistemarono le ferite minori, poi aiutarono Hydak a fare un bagno caldo. Smith uscì a comprare birra e cibari. Bonnie lavò Hydak con mani tenere e quando il suo pene si rizzò maestosamente, come chiaramente fece, lo accarezzò con dita amorevoli, lo celebrò con parole generose. Il recupero fu pronto, Hydak capì, e a dispetto del suo malandato stupore di essere stato scelto, non ci poteva fare nulla. Picchiato, ma grato si arrese. E Smith tornò, mangiarono. Uomo di gran tatto, quando il film arrivò ai titoli di coda si ritirò, andò nel deserto con il suo furgone e il rotolo di coperte, dormì sotto le stelle sulla sabbia in compagnia di tarantole e crotali e sognò senz'altro le sue varie mogli trascurate. Habzug e Hydak, finalmente soli, si schiantarono l'uno sull'altra come vagoni che si incontrano su un binario. Nessuno tenne il controllo quella notte, ma l'instabile letto del motel dondolò sulle sue gambe e sbatté contro la parete più volte dello strettamente necessario. Il suono delle grida e degli strepitii di Bonnie si levarono nella notte a intervalli imprevedibili ma frequenti, provocando commenti sfavorevoli nelle camere adiacenti. Più tardi, nel corso della mattinata, al momento di dare la disdetta della camera dopo un gran finale, una piena e l'altro svuotato giacquero spompati come macrocistidi su una spiaggia umida e rimasero in ascolto per un po' di tempo prima di rispondere al gentile battito delle nocche di Smith sul cuore cavo della porta incompensato. Quella stessa porta dove in una cornice stava appeso l'avviso ben stampato. Avviso: la disdetta va data entro le 10. Tutti gli oggetti della stanza sono stati inventariati e contati prima di affidarlo a voi. Il vostro nome, indirizzo e numero di patente saranno conservati per sempre nel nostro archivio. Fate come foste a casa vostra e tornate a visitarci. Addio. La direzione del Shadai Rest Motel. Take it on, straight out, make your mind. Allora, questi erano Sonic Youth con il brano Orange Rolls e Angel Speed. È caduta la connessione, la stavamo aspettando. Ce l'aspettavamo. Purtroppo cade sempre durante le letture, quindi non si può controllare durante le letture se cade la connessione, perché o si legge oppure fai altre cose per vedere se è caduta la connessione. Noi ci ridiamo sopra, continuiamo, ci ridiamo anche sopra, se non ci ascoltano i compagni, non ce la prendiamo male, oramai è diventata un qui pro quo, una continuazione. Soprattutto invitiamo, anche se non ci stanno ascoltando, una serie di compagni che invece prima erano in ascolto a ritentare, a riprovare a connettersi con noi, oppure nel caso che non fosse possibile, scaricare il podcast che trovate su www.radioazione.org. ma soprattutto a noi non ci interrompe nessuno. Niente e nessuno. E quindi adesso riprendiamo a parlare di l'industria del legname in America. Due punti: progetti e ostacoli. Disse che sarebbe andato a casa per un po'. Disse che ci aveva pensato parecchio durante la notte e aveva deciso che doveva davvero andare a trovare moglie e figli, sbrigare la corrispondenza e altre faccende e riprogrammare qualche gita in barca giù per il Green River prima di unirsi nuovamente a loro. Inoltre era preoccupato che Bishop Love e la squadra di ricerca e soccorso lo stessero ancora cercando nelle contee di San Juan e di Garfield. Chiese ad Abzug e Didac di rimandare di almeno una settimana la prossima azione. I tre consumarono una colazione insieme al Mom's Café, un ristorantino economico, sconsigliato addirittura per mangiare, e uno dei migliori di Pudge. Bevvero un drink clorato all'arancia, mangiarono pancake, colla e cotone surgelati e il salsicce al nitrato di sodio e bevvero il caffè fenico. Una tipica colazione di Pudge. Una tipica colazione dei campioni. Concordarono è nemmeno malaccio addirittura, ma pessima. Concordarono anche sui contenuti dell'immediato futuro. Smith avrebbe fatto i suoi 650 km di giri coniugali per lo Utah, adempiendo ai suoi doveri matrimoniali. Poi si sarebbero ritrovati per l'attacco programmato allo Utah State Highway Department e ai suoi lavori più recenti. E Bonnie? E George? Beh, George ammise di avere in mente una prematura luna di miele prematrimoniale nelle foreste fredde su nel North Rim, sopra il Grand Canyon, un declivio che a Bonnie sarebbe piaciuto ammirare dall'alto. Inoltre, lui voleva indagare le attività in corso del Forest Service e delle società che tagliavano e trasportavano i tronchi su dal Kaibab Plateau. Gli uomini si strinsero i polsi, un po' come Mallory e Irvine sull'Everest nel lontano 1924. Bonnie abbracciò Smith e quindi si separarono. Smith sul suo furgone diretto a Cedar City, Bountiful al Green River, George e Bonnie sulla Jeep che da Page li avrebbe portati fino alla Echo Cliff, Marble Canyon e ancora un po' più in là. Bonnie ricordò l'ultima volta che era stata così, quando doveva raggiungere Lee's Ferry e imbarcarsi in quella ormai storica impresa sul fiume attraverso il canyon. Come poteva dimenticare il vagabondo barbuto sulla spiaggia e le rapide, la cospirazione intorno al fuoco che aveva preso sempre maggiore consistenza con il trascorrere dei giorni, delle notti, giù fino agli intestini precambriani della terra, da Lee's Ferry fino a Temple Spar. Sulla spiaggia, nei pressi di Separation Wash, gli uomini si erano solennemente giurati l'un l'altro eterna fratellanza, sigillando il patto con un barbone e sangue spillato dei loro palmi tesi con il coltello di Haydak. Bonnie, distante nell'empireo della sua erba, aveva sorriso alla cerimonia, ma venne comunque tacitamente inclusa vicino al fuoco sotto le stelle di mezzanotte, 900 metri più in basso dell'oro dello Shipwrights Plateau. Era nata la Monkey Ranch Gang, la gang dei sabotatori. Gli amanti scesero nella gola all'altezza di Battle Springs. Girarono tutto a destra, filarono a nord attraverso i confini dell'arrivederci a presto Navajo Land fino a Marble Canyon Bridge. Un giorno anche questo cadrà, scherzò Hajduk, e arrivarono fin dentro l'Arizona Strip. Corsero con la jeep di Hajduk verso ovest, sotto la parete del Paria Plateau e Vermilion Cliff. Superarono Cliff Dweller's Lodge ed entrarono nella House Rock Valley. Attraverso l'inferno rosso delle pietre e delle ondate di caldo, oltrepassata l'uscita per Buffalo Ranch e su per la massa calcarea, come una balena arenata sul piano desertico, su fino alla massa calcarea dell'East Kaibab Monocline. Qui la jeep si arrampicò salendo a strappi per oltre un chilometro fino ai pini gialli e ai pascoli erbosi della Kaibab National Forest. Si fermarono, come tutti i buoni turisti, al lago Jacob per fare benzina, consumare un caffè con torta e portarsi via qualche birra. L'aria era tersa e dolce con il profumo di sole, catrame di conifere ed erba grama fresca, a dispetto del tremendo caldo del deserto in attesa sotto di loro. Le foglie traslucide dei pioppi tremoli si agitavano nella notte, i tronchi dalla liscia corteccia bianca di quegli alberi così aggraziati si stagliavano contro lo sfondo scuro delle conifere. Al lago Jacob girarono a sud sulla strada che finiva al North Rim del Grand Canyon. Bonnie aveva in mente amore, scenario perfetto, e un bungalow tra i pini. Hajduk, anche lui romantico e sognatore, pensava soprattutto a macchinari masochisti, acciaio sofferente, ferro, sottoposto ad una innaturale costruzione, le molteplici immagini di quella che chiamava distruzione creativa. In un modo o nell'altro dovevano rallentare, se non arrestare, l'avanzata della tecnologia, la crescita della crescita con la C maiuscola, il diffondersi dell'ideologia delle cellule cancerogene. Ho giurato sull'altare di Dio, muggisce Hajduk nel vento che romba perché il tettuccio di tela della jeep è tirato indietro. Ho giurato, e strizza gli occhi tentando di ricordare le parole di Jefferson. Ho giurato ostilità eterna contro ogni fottuta tirannia, deformandolo leggermente ma in modo assolutamente corretto, le parole di Jefferson, tirannia sulla vita degli uomini e la vita delle donne, grida Habzuk. Le donne bisogna scoparle, dichiara Hajduk con entusiasmo, e a questo proposito aggiunge, abbandonando l'autostrada per prendere una rara stradina che si infila nel bosco sotto i pini e i pioppi tremoli, lontano da occhi indiscreti e verso il margine di un pianoro assolato punteggiato di merda di vacca. A questo proposito, continua, andiamo. Bloccò la jeep, spense il motore, la afferrò e la trascinò nell'erba. Lei si oppose con gran vigore, afferrandolo per i capelli, strappandogli la camicia, cercando di infilare il ginocchio tra le sue gambe. Puttana, voglio lui, adesso ti scopo. Sì, disse lei, provaci, bastardo degenerato. Rotolarono più e più volte sopra lo sterco di vacca che punteggia l'erba, sulle foglie cadute, gli aghi di pino, le formiche nevrotiche terrorizzate. Lei riuscì quasi a fuggire, lui la sgambettò, tirandola giù di nuovo, stringendola tra le sue grandi braccia, affondò ogni bocca, faccia nella flagranza dei suoi capelli, la morse dietro il collo, succhiandole i capillari, le mordicchiò il lobo dell'orecchio. Grassa puttana ebrea del cazzo, maiale esotico, bianco, pagano, non circonciso, puttana del cazzo, illetterato, paraplegico verbale, veterano disoccupato, ti voglio. Tre lettere il tuo record a scarabeo adesso, e va bene, ma era sopra lei. Hai la testa dentro una merda di vacca, lo sai, ma non ti importa, certo che no, va bene, ok. Ma dov'è? Non riesco a trovarlo, è questo, tutto qui. Ciao, ma sei davvero tu? Sono Silvia, sì, ascolta, ma non riuscirò a venire per la nuca, mi hai capito bene? Beh, perché il mio ragazzo, ti ricordi di Isabu Ignaz? Ha fatto saltare all'aeroporto, una specie di maniaco. Lei si tuffò dentro, lei lo inghiottì, il vento spirava tra i pini gialli, i pioppi tremavano, le foglie danzavano con un suono simile a quello di tante piccole cascatelle. il discreto chiacchiericcio degli uccellini, il latrato di una volpe grigia, il sibilo dei pneumatici sulla lontana strada asfaltata. Tutti questi suoni normali, sani e moderati furono spazzati via oltre il confine del mondo, smarriti nel flusso. E questi erano Killing Joke con il brano Psych 7 Inch, dopo l'ultima lettura di Edward Ebbey dei Sabotatori, non l'ultima, ultima per ora, poi dopo si continuerà. Leggiamo delle riflessioni, le riflessioni purtroppo oramai state abituate, no? Delle mie riflessioni, perché penso che un modo di portare avanti un sito e un blog sia anche quello di ogni tanto far sapere le proprie riflessioni, non andare a pubblicare indiscretamente questo o quell'altro. Comunque un blog o un sito deve avere una sua linea, un pensiero che anche se si può capire attraverso le cose che vengono pubblicate, però sarebbe pure bello capire come la pensano le persone che portano avanti tali progetti, e quindi anche perché i progetti vengono portati avanti. Eh sì, quindi come Radiazione si fa già sin dalla nascita di Radiazione, anche perché lo ricordo, la reazione comunque un continuo di un giornale affinità periodico internazionalista che si è fermato nel 2007. Il mio obiettivo era, oltre a dare la voce ai compagni detenuti e la voce a chi in tutto il mondo porta attacchi concreti contro gli stati, contro il capitale, è anche bello ogni tanto far sentire la propria. Quindi Radiazione, il testo si chiama Riflessioni. Allora, più volte è capitato, almeno nell'ultimo anno, che nelle mie riflessioni fossero state descritte le sedi o biblioteche anarchiche come delle vere e proprie chiese. Innanzitutto ci tengo a precisare che di base questo non è per niente quello che penso io di tali spazi, ma è il modo in cui vengono concepiti dagli assidui praticanti. Sedi e biblioteche anarchiche dovrebbero, secondo me, servire più da luoghi dove poter anche leggere qualche libro in compagnia, opuscolo, giornale, quello che è, così da poterlo discutere, analizzarlo, criticarlo o approvarlo con altre individualità. Praticamente dovrebbero servire per un confronto costante. Invece molto spesso essi si trasformano in una sorta di aula scolastica, con tanto di professori che coscientemente o non cercano di rendere edotti i più giovani alunni, che più delle volte si limitano solo ad ascoltare ed imparare a memoria. Giovani non anagraficamente. No, giovani, sì, infatti, giovani chi si avvicina... nel senso di avvicinamento all'idea anarchica, all'anarchismo. Tra i giovani e alunni anarchici, come accade in ogni scuola statale, dopo qualche tempo inizia il processo di concorrenza a chi deve essere più bravo, così da poter arrivare a diventare un giorno allo stesso livello dei propri professori. Dopo qualche anno, gli alunni più arroganti, quelli che invece di parlare urlano, tanto per capirci, riescono sempre ad avere la media sui più secchioni. Ci riescono meno o per niente, dipende dai casi, con gli asini, a cui non interessa per niente il percorso di specializzazione. E così la storia si ripete negli anni. I più secchioni di solito restano alunni a vita, abbassando le orecchie ad ogni minimo accenno di disaccordo con chi si pone arrogantemente un gradino o cattedra immaginaria più in alto. Essi però saranno sempre coccolati con il metodo del bastone e la carota dai loro presunti professori. Questo perché gli stessi professori non possono permettersi di restare senza alunni, altrimenti non potrebbero più svolgere il loro ruolo di illusorio di insegnanti. Praticamente lo stesso concetto che appartiene ai governanti, per far sì che il popolo li vote e li elegga molto democraticamente. A turno i professori ne scelgono qualcuno da tenere accanto e facendolo così sentire importante per qualche tempo, per poi subito raddrizzarlo appena alza un po' di più la testa. Gli asini invece, non avendo nessuna particolare aspirazione a diventare una figura di rilievo, hanno una vita un pochino più difficile. Essi, come i più svogliati e cacciaroni nelle classi, vengono sempre visti come delle vere e proprie pesti, gente che interrompe mandando su tutte le furie i professori durante le lezioni, e per cui vengono demonizzati davanti agli alunni secchioni che obbediscono e iniziano a tenerli a distanza, fino al punto di additarli come nulla facenti nel caso come questi asini abbandonano la scuola perché la rifiutano. invece della scuola si potrebbe portare avanti anche quello, l'esempio della chiesa, in cui le dinamiche sono le stesse, cambia solo il ruolo dei personaggi: i preti a posto dei professori, i chierichetti a posto dei secchioni, i praticanti i meno secchioni, i blasfemi gli asini. Ecco perché più volte ho descritto le sedie e le biblioteche anarchiche come luoghi simili a tali istituzioni. Se fosse per me, dovrebbero esistere 1000 e passa di sedie o biblioteche anarchiche, o comunque spazi di confronto, ma libere da professori e alunni secchioni. Purtroppo c'è da dire che il vero problema è che in certi luoghi, non tutti fortunatamente, si creano dei veri e propri mostri. Finché saranno riconosciuti i professori, si riconosceranno anche le autorità. Finché esisteranno gli alunni secchioni, non si potrà mai, si porrà mai termine al processo di evadere alla sottomissione. E giù di lì esisteranno per sempre le pagelle anarchiche, o riconoscenza dell'anarchismo di un individuo con tanto di voti, e le patenti anarchiche, promosso o bocciato. E allora infinite chiacchiere su come debba o non debba avvenire il processo di trasformazione di questo pudito esistente in una società libera non servono praticamente a nulla, se non ad annebbiarsi la mente in sogni inutili. La ricerca dello stesso confronto, a prescindere, solo perché di base ci unirebbe l'anarchismo, è solo un motivo in più per rimanere anestetizzati, e che ci limita se solo votati a piagnisteo e sulle sfighe o deliri sui massimi sistemi. Inoltre trovo la ricerca del confronto a prescindere, anche se tra soli anarchici che hanno punti di vista completamente differenti, una pratica cittadinista non tanto dissimile da quella di qualche lotta portata avanti da un po' di anni a questa parte. Non penso che le unità forzate portino a qualcosa di buono, se non a continui paletti o contropaletti che bloccano il cammino individuale di ognuno di noi. Quindi, più che pensare ad una new anarchy, io cercherò di rompere i paletti e le contraddizioni che bloccano da sempre lo scontro concreto e costante nel tempo contro ogni forma di autorità. Dovremmo iniziare a pensare che l'anarchia non si fa con i libri, i giornali, i siti o blog, le chiacchiere inutili, i presidi e le manifestazioni. Sarebbe come pensare di buttare giù un grattacielo a testate. Sarebbe l'ennesimo fiore nella canna del fucile di un soldato per non farlo sparare. C'è un solo modo per abbattere un grattacielo, piaccia o non piaccia, la dinamite. Quando tutti capiremo questo concetto, potremo allora definirci degli anarchisti nella costante ricerca di diventare anarchici. Per ora, chi più, chi meno, e tranne chi ci ha provato mettendo in gioco tutto se stesso e la sua limitata libertà, siamo solo fumo e niente arrosto. E allora vadano a fanculo l'arroganza di criticare tutto e tutti, specialmente quando le proprie chiappe poggiano solamente tra la sedia di una casa davanti a un PC o una scrivania con foglie e pena, o quelle di una scuola o un inginocchiatoio della chiesa. Vadano a fanculo la prepotenza, l'avanguardismo, la filosofia, il giudizio e le sentenze, tutte cose che riproducono l'autorità e la sottomissione. Perché tra gli anarchici esiste anche questo, e nasconderlo sarebbe l'ennesima presa per il culo a noi stessi, esibendoci nei panni di rivoluzionari, ma solo a parole e facendo i figli davanti agli occhi degli altri. Fino a che gli alunni non rovesciano le cattedre dei professori, fino a che i chierichetti e praticanti non rovesciano altari e inginocchiatoi, fino a che, testardi come gli asini, non faremo crescere dentro di noi la giusta rabbia che possa farci saltare le recinzioni che ci separano dal sentiero del bosco selvaggio, fino a che, come blasfemi, vomiteremo sui principi autoritari inculcatici da Stato e Chiesa, evitando di riprodurli sotto altre forme, fino a che non iniziamo ad agire per fare in modo che un giorno si possa vedere realmente e non solo cantare tristemente sorgere il sol dell'anarchia. Radiazione, giugno 2014. E queste erano le ennesime riflessioni fatte dal sottoscritto. Nella diretta precedente ho detto qualcosa cambierà. Cercherò di mettere delle riflessioni o una volta a settimana o comunque più spesso nell'arco di un mese, così da poter dare un percorso, un taglio comunque anche per far capire Radiazione come la pensa, non solo andando a fare copia e incolla di articoli presi da un sito e incollati da un altro, contando di fonte o meno fonte, richiesta. Perché anche se non sembra, qua giù si discute, ci si confronta. E quindi, come ho detto più di una volta, ci sarebbe bisogno anche di nuove riflessioni, anche da chi porta progetti come la controinformazione via web, altrimenti ci attiriamo sempre le critiche degli anti web o i presunti anti web, che comunque poi alla fine si informano attraverso le nostre contraddizioni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Chrome con il brano New Impression, e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Abbey. su e giù, dentro e fuori la foresta. Non è la nostra connessione, su e giù. No, su una e giù. Una sola volta. Era iniziato così, ma fortunatamente adesso stiamo continuando in maniera diretta fino a quando, boh, ce lo permetto. Non lo sappiamo. Vea Weiss, direbbero i teutonici. Purtroppo dobbiamo dire finché ce lo permettono. Finché ce lo permettono. Ma abbiamo fatto rispetto ad un anno fa dei grandi passi in avanti. Sì. Cogliamo l'occasione per ringraziare il compagno che gestisce Anarchist Library per averci risolto gran parte dei nostri problemi, ma non tutti. E quindi ritornavamo da su e giù, dentro e fuori la foresta e i pascoli, oltre le doline, i pozzi e crateri del terreno ondulato del plateau calcareo, corrugato come una spugna con un sistema infinito di caverne. George Aydag, lui, pilotava la jeep avanti a sud verso l'industria del taglio e trasporto dei tronchi, le sue speranze e i suoi timori. Lei, Bonnie Abzug, si appoggiava a lui, per metà sopra di lui, i lunghi capelli che si libravano come bandiere al vento. Si fermarono ancora una volta nei pressi del limite settentrionale di un pascolo chiamato Pleasant Valley, per correggere e abbellire un cartello ufficiale dello US Forest Service Smoky Bear. Il cartello era un simulacro a grandezza naturale del celebre scocciatore orsino, completo di cappello da ranger, blue jeans e pala, nonché della scritta che immancabilmente corre dei cartelli come questo, ovvero: solo tu puoi prevenire gli incendi nei boschi. Di nuovo all'opera con le vernici. Aggiunsero un paio di baffi gialli che certamente miglioravano il muso scialbo di Smoky Bear e ritoccarono le sue pupille con due spruzzi di colore rosso. Cominciava finalmente ad assomigliare a Robert Redford che interpretava Sundance Kill. Bonnie sbottonò in senso pittorico la patta dei pantaloni di Smokey e gli disegnò all'altezza del cavallo un pisello moscio con le palle pelose e rattrappite. Al sermone di Smokey sulla prevenzione degli incendi, Aydag appose un asterisco e una nota a piedi pagina: Smokey Bear è un cacciaballe. La maggior parte degli incendi naturalmente sono provocati da quel vaporoso antropomorfo che sta in cielo, Dio, camuffato cioè dall'illuminazione elettrica. Molto divertente. Tuttavia, nel 1968 il Congresso degli Stati Uniti aveva stabilito essere un reato federale dissacrare, mutilare o altrimenti migliorare qualsiasi rappresentazione ufficiale di Smokey the Bear. Consapevole di questa legislazione, Bonnie aveva riportato a forza Aydag sulla jeep e lontano da lì prima che fosse colto dall'urgenza di appendere Smokey per la collottola a qualche albero nei paraggi, tipo un pinus ponderosa, in modo tale da elevare in un modo o nell'altro il pene dell'orso dalla sua flaccida pendenza alla piena erezione in rigor extremis mortis. Può bastare, spiegò Abzug come al solito, lei aveva ragione. E 6 km a nord, all'ingresso del North Rim District del Grand Canyon National Park, arrivarono ad un incrocio. Il cartello diceva: attenzione, passaggio automezzi. A quel punto Aydag svoltò a sinistra e imboccò la strada sterrata ma larga, utilizzata per il trasporto dei tronchi d'albero che conduceva verso est, nella foresta. E arrivarono ad un nuovo scenario. Per tutti i 60 chilometri percorsi dal lago Jacob non avevano visto altro che pascoli verdi decorati con mandri di bestiami e cervi e, oltre i pascoli, i pioppi, i pini, gli abeti di Douglas e le altre conifere di quella che sembrava, intatta e tutta in piedi, una foresta nazionale del popolo americano, facciata, dietro il falso proscenio di alberi vitti, una fascia profonda a mezzo chilometro di crescita vergine. Lì c'era il vero business della foresta nazionale: vivai per il legno, piantagioni di alberi, stabilimenti per la produzione di travetti, assi, polpa e compensato. Bonnie rimase sbalordita. Non aveva mai visto un'operazione di disboscamento prima di allora. Ma cos'è successo agli alberi? Quali alberi? Disse Aydag. È proprio quello che dico io, quali alberi? E allora Jack fermò la jeep. in silenzio guardarono la scena di devastazione che li circondava. Un'area di foresta di oltre un chilometro quadrato era stata spogliata di tutti gli alberi, sani o malati, giovani o anziani. Le uniche cose rimaste erano i ceppi. Laddove c'erano stati gli alberi, ora si trovavano enormi montarozzi di vegetazione tagliata in attesa di essere bruciata con l'arrivo delle nevi invernali. Una rete di tracce lasciate da camion, trattori per il trasporto di tronchi e bulldozer era disegnata tra gli alberi amputati. «Spiegami questo, che cazzo succede qui?» chiese lei. Lui tentò di spiegare, ma spiegare non è mica tra le cose più semplici da fare. «Nel disboscamento», disse, «fai sparire la foresta naturale o quella che i selvicoltori industriali chiamano alberi infestanti. E si piantano una specie di albero in file dritte funzionali come grano, sorgo, barbabietolo e altre pratiche produzioni agricole. Poi ci rovesciano sopra dei fertilizzanti chimici per rimpiazzare l'humus portato via. Poi iniettano nelle culture degli ormoni per la crescita rapida. Spargono intorno al vivaio dei repellenti per cervi e fanno crescere un lotto omogeneo di alberi, tutti identici, clonati. Quando gli alberi raggiungono un'altezza prestabilita, attenzione, non la maturità, per questo occorre troppo tempo, quando la raggiungono quell'altezza prestabilita, allora fanno arrivare delle macchine apposta che tirano giù quei cazzoni, tutti. Poi bruciano tutta l'area rimasta coperta di detriti di vegetazione tagliata, passano l'erpice, seminano e fertilizzano di nuovo tutto, in un ciclo che si ripete senza soluzione di continuità, sempre più veloce, veloce, sempre più stretto e stretto, fino a che, come l'uccello concentrico malese della favola, che vola in cerchi sempre più stretti, non scompare nel buco del tuo stesso cubo. «Hai capito?» le chiese. «Beh, sì e no», rispose lei, «tranne che se questa» e agitò la mano e il polso tanto di braccialetti verso la terra circostante, «voglio dire, se tutta questa fosse una foresta nazionale, una foresta nazionale, allora, come dire, apparterrebbe anche a noi, giusto? Sbagliato, mai detto, non capisci mai niente, maledetta succhiacazzi liberal marxista newyorkese. Io non sono una libera marxista newyorkese, non sono una succhiacazzi!» Haidak guidò la jeep oltre l'area disboscata, anche se nella Kaibab Valley di foresta naturale ne era rimasta poca, si presentava ancora in larga misura come un bosco fitto. L'opera di disboscamento era stata appena avviata, anche se molto era perduto, molto ancora rimaneva, anche se molto era perduto. Ma ancora agitata, Bonnie chiese: «E ci pagano per i nostri alberi, vero?» «Oh, certo, i boscaioli fanno un'offerta per ottenere il diritto di disboscare un'area. Il maggiore offerente versa un assegno al ministro del tesoro americano. Il Forest Service prende i soldi, i nostri soldi, e li spende per costruire nuovi sentieri e strade per il trasporto dei tronchi, come questa dove stiamo camminando. I tronchi tutti arginati e livellati perché i tagnalegna possano portarci le loro macchine per il trasporto della legna e vedere quanti cervi, turisti e scoiattoli riescono a fare fuori. Un cervo vale 10 punti, lo scoiattolo 5 e il turista solo 1. «E dove sono adesso i taglialegna?» «Beh, oggi è domenica, mica lavorano. Ma l'America non ha bisogno di legna, la gente ha bisogno di avere un tetto qualunque sulla testa, giusto?» disse lui. «La gente ha bisogno di un tetto sulla testa», e lo disse astiosamente. «E lasciamogli costruire le loro case con le pietre, per Dio, con il fango e i bastoni come i papaggi, con i mattoni e i blocchi di calcestruzzo di scorie, o con le casse da imballaggio e le lattine vuote come i miei amici a Dak To, in Vietnam. Lasciamogli costruire case che durino per un po', diciamo per un centinaio di anni, come il capanno del mio bisnonno in Pennsylvania. Così magari non dovremmo spogliare le foreste.» «Beh, ma allora tutto quello che stai chiedendo tu, Haidak, è una controrivoluzione industriale. Giusto, non chiedo altro, ma non è una controrivoluzione, è una rivoluzione. E come pensi di arrivarci?» Aidak rifletté su quella domanda. Sentiva la mancanza di Doc adesso. Il suo cervello aveva la stessa funzionalità della fanghiglia sul motore in un giorno d'inverno. Della spazzatura, della prosa del presidente Mao. Aidak era un sabotatore di grande furia, ma con poca materia grigia. La jeep nel frattempo si era ormai nel tardo pomeriggio. E quindi la jeep era penetrata ancora più a fondo nella Kaibab National Forest. La materia organica che cadeva dai pini volteggiava tra i raggi del sole e gli alberi traspiravano, i tordi eremiti cantavano e soprattutto ciò il cielo, non avendo alcuna alternativa, ostentava i colori presi a prestito dal tramonto, azzurro e oro. Aidak pensava, alla fine l'idea arrivò e quindi disse: il mio compito è salvare il fottuto deserto, non conosco nient'altro che valga la pena di salvare. Il deserto è semplice, no? Bah, siamo proprio ai minimi termini, disse Abzug. Però per me va bene. Arrivarono al sito lavorativo che Aidak stava cercando. Si trattava di un disboscamento in corso con intorno macchine imponenti che nel crepuscolo serotino non avevano nulla a che fare. Bulldozer, camion con cassone ribaltabile, trattori per il traino dei tronchi, auto, cisterne, tutti erano in attesa tranne i grandi autocarri con rimorchio che avevano fatto la loro ultima corsa carichi giù dal plateau verso le segherie a Fredonia il venerdì precedente. E dov'è il guardiano? Chiese Abzug. Non c'è, disse Aida, che mica ci stavano aspettando. Beh, se non ti spiace io però vorrei controllare. D'accordo, controlleremo. Aidak fermò la sua jeep, scese e bloccò i mozzi. Quindi inserì le quattro ruote motrici, percorsero su e giù la pista per il trasporto dei tronchi attraverso fango e vegetazione decomposta intorno alle cataste di legname e i cumuli di detriti, attraverso lotti di ceppi mutilati. Una strage di pini, non c'era un albero in piedi in un'area di 200 acri. Nessuno più diceva «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Non c'era nessuno che avrebbe detto più così. Trovarono l'ufficio di quel cantiere forestale, un piccolo caravan chiuso a chiave e buio, disabitato. «Georgia Pacific Corporation, Seattle, Washington», diceva il cartello di latta sulla porta. «Questi ragazzi», pensò Aidak, «sembra vengano da lontano». Scese dalla jeep, bussò alla porta lucchettata, fece tintinnare il lucchetto. Nessuno rispose, niente rispose. Un muscoiattolo squittì, una ghiandaia azzurra emise strida rauche tra gli alberi oltre i ceppi, ma lì vicino non si stava muovendo nulla. Persino il vento si era placato e la foresta giaceva immota, come il sito morto che lo circondava. A Bonnie tornò in mente il viaggiatore di loro. Che è ritornato il viaggiatore di loro, che ha ricordato. Aidak allora tornò indietro. Allora, te l'ho detto, qui non c'è nessuno, sono andati tutti in città per il fine settimana. Lei si girò, scrutando il campo di battaglia fino alle inerti ma potenti macchine lì vicino, gli alberi in difesa oltre l'area disboscata, poi riportò lo sguardo sulle macchine. Ma tutta questa attrezzatura varrà milioni di dollari. Aidak soppesò la scena con occhio esperto. Circa 2,5 milioni, disse. Una cifra valeva l'altra. Rimasero tutte e due in silenzio per un minuto. E che si fa? Disse lei sentendo il freddo della sera. Lui sorrise. I suoi denti canini baluginarono nell'oscurità, i grandi pugni si sollevarono, i pollici proiettati verso l'alto. Beh, è ora di rimboccarci le maniche. piccola parentesi del manuale di istruzione dei sabotatori. Abbiamo appena lasciato George Idak e Habzug, Bonnie Habzug, a vedere che cosa significa oggi essere boscaioli e disboscamento. Adesso seguiamo il dottor Service, che in apertura di puntata è partito verso Albuquerque e si sono divisi, e la prossima puntata, lunedì prossimo del mese di giugno, vedremo quale sarà la reazione dei due innamorati sabotatori contro il disfacimento del disboscamento. Ma adesso seguiamo, prima di salutarci e finire questa diretta d'azione di martedì 3 giugno 2014, seguiamo il dottor Service a casa. Una dura giornata di lavoro. Prima un intervento chirurgico al torace, una lobectomia complicata sul lobulo inferiore del polmone sinistro di un ragazzino che era venuto nel sud-ovest con 10 anni di ritardo, dopo che la vecchia area del XIX secolo era stata rimpiazzata dal pensiero scientifico moderno. Era riuscito a contrarre una polmonite aggravata da cicatrici di broncochiettasia, rara nei giovani mammiferi, aggravata a sua volta, alcuni anni dopo, dal più tipico dei disturbi sud-occidentale, la coccidiomicosi o febbre della valle, un'infezione da fungo associata ai terreni alcalini e trasportata in lungo e largo dai venti. Ovunque la superficie desertica sia disturbata da attività agricole, minerarie o edili. Nel ragazzo, questa malattia dirompente aveva portato nel suo decorso ad una grave emorragia. Non era rimasta altra soluzione che procedere alla rimozione, suturare i bronchi e ricucire la pelle del giovane. Dopo l'operazione, per rilassarsi, Doc aveva eseguito una emorroidectomia, un'operazione semplice come togliere il torsolo a una mela, che lo divertiva sempre, specie se il suo paziente è l'ultraconservatore culo bianco arcipuritano accusatore di ballerine in topless W.W. Dangledine. Non il vero e inimitabile W.W. Dangledine, ma sì, proprio lui, procuratore distrettuale della contea di Bernal, New Mexico. La parcella di Doc per questa introspezione rettale sarebbe stata in questo caso di 500 verdoni puliti. Eccessiva? Ma certo che era eccessiva, ma su via. Il procuratore era stato avvisato, gli accusatori sarebbero stati violati. È finito anche con la seconda operazione, si sfilò il camice imbrattato di sangue, pizzicò l'infermiera sbagliata sulla natica destra e trotterellò sulle gambe malferme fuori della porta secondaria, lungo il passaggio attraverso il bagliore fotochimico dell'opaco ma persistente sole di Albuquerque, giù per la breve successione di scalini nell'oscurità, mettiti a tuo agio e ovattata del bar più vicino. La cameriera addetta ai cocktail venne e se ne andò. Tornò e se ne andò di nuovo, portandosi dietro il suo sorriso immateriale che brillava nel locale poco o niente illuminato. Doc sorseggiò il suo martini con il pensiero rivolto al ragazzino che aveva un taglio di 20 centimetri ormai ricucito che gli bruciava sotto la scapola sinistra. Il sud-ovest, un tempo, era stato il luogo dove gli specialisti pneumologi dell'est inviavano i loro casi più gravi di malattie respiratorie. Non più. I profeti dello sviluppo, banchieri, industriali, lottizzatori, costruttori di strade e dirigenti delle aziende di servizi erano riusciti, in meno di 30 anni, a coronare i loro sforzi di portare l'aria delle città sud-occidentali agli standard comuni, vale a dire a renderla schifosa come da qualsiasi altra parte. Doc credeva di sapere da dove arrivava il veleno che aveva aggredito i polmoni del ragazzino, lo stesso veleno che consumava le membrane mucose di milioni di altri cittadini, lui compresi. da piccoli problemi alla vista, all'irritazione degli occhi, dalle allergie all'asma, all'enfisema, a una astenia generale. Il percorso era segnato, patogeno sempre e comunque. C'erano già stati qui ad Albuquerque dei pomeriggi in cui ai ragazzi delle scuole era stato vietato di giocare all'aria aperta perché respirare era diventato un pericolo maggiore del possibile incontro con un pedofilo. Ordinò un secondo martini, seguendo con lo sguardo il movimento delle cosce strutturalmente perfette della ragazza, mentre si ritirava con movimenti sinuosi tra i tavolini fino al banco cromato del bar. Mentre lei camminava, pensò a quelle superfici interne che si carezzavano vicendevolmente in un'intimità senza attrito. Pensò a come, dove, perché la conducevano. Pensò, con una fitta lancinante come i sogni del mattino, pensò a Bonnie. Ed era abbastanza, anche troppo. Doc uscì con passo incerto nella grassa luce del sole, nel rombo del traffico che cresceva involontariamente nell'irreale realtà della città, e trovò la sua bicicletta, ma in realtà era di Bonnie. La trovò dove egli stesso l'aveva parcheggiata, un po' di sghembo, nella rastrelliera vicino all'ingresso del reparto chirurgia. Smanettando dapprima malamente, il dottor Service riuscì a innestare il rapporto più basso dei 10 disponibili per affrontare la lunga salita di Iron Avenue. Massacrarsi le gambe, sintetizzavano così il concetto quelli che sapevano usare la bicicletta in modo da far riposare il culo. Motociclisti pazzi su arroganti bighe di ferro gli sfilavano accanto, sfiorandolo pericolosamente. Egli combatté eroico e solo, resistendo al traffico senza l'aiuto di nessuno. Un operaio edile ai controlli di una betoniera fece suonare la sua tromba subito alle spalle del dottore, mandandolo quasi a schiantarsi in un tombino. Doc si rifiutò di imprecare. Continuando a pompare, sollevò una mano con il medio simbolico rigidamente tesa. «Cinga, cabron!» fu la sua risposta diretta. L'autista della betoniera lo superò, sporgendosi in maniera sconsiderata sulla destra della sua cabina per esibire dal finestrino un avambraccio da macelleria, pugno e dito. «Cinga di tua madre!» Doc replicò con la nota doppia stoccata napoletana. «È il mignolo e l'indice tesi come i rebbi di una forchetta!» «Cinga, stu cazz!» Oscenità innaturale e intraducibile. Uno storpiare del detto italo-americano stu cazz, come dicevano loro negli Stati Uniti. Oh, troppo! Questa volta si era forse spinto troppo in là. Il camionista sterzò la betoniera verso il bordo del marciapiede facendo stridere i freni, spalancò la portiera dal lato di guida e si fiondò giù. Doc zompò sul marciapiede e pedalò placidamente tenendo la destra, seduto ritto come un gentiluomo. Passò ad un rapporto più agile, il camionista fece qualche passo per inseguirlo, poi desistette e rimontò al suo posto di guida mentre un coro di clacson cominciò a suonare, tutti fortissimo, dietro alla betoniera. Di nuovo sulla Iron. Per un altro chilometro e mezzo la sua rotta più conveniente, Doc si rese spiacevolmente conto di essere inseguito. Un'occhiata alle sue spalle e vide la betoniera guadagnare terreno avanzando come Golia. Con il cuore che aumentava i suoi battiti, masticando disperatamente il suo sigaro, analizzò la situazione. L'angolo che aveva in mente, un isolato più là, lasciava vedere un lotto vuoto con un tabellone gigante a due facce piazzato su lunghe gambe d'acciaio luccicante. Doc rallentò un po' la bicicletta, pedalando il più vicino possibile al cordolo, e consentì il passaggio di un paio di automobili. La betoniera non era incollata alle sue spalle. Doc guardò ancora una volta indietro e lanciò all'autista un irripetibile insulto calabrese a due rebbi. Il clacson della betoniera rispose con un urlo carico di rabbia. Doc affrettò l'andatura, passando al sesto rapporto, mentre il camion del cemento rombava sul suo collo. L'angolo era sempre più vicino, ancora più vicino. Concentrò la sua attenzione sulla stretta apertura del cordolo, dove un vialetto sterrato portava i tabelloni. Ma Doc e Bonnie li avevano già corretti in precedenza, ricordiamo. Loro, prima di incontrare gli altri, correggevano i cartelli pubblicitari. Offrì sportivamente una possibilità all'autista. Doc segnalò con cortesia il cambio di direzione, con il medio teso, naturalmente. E il momento arrivò. Doc affrontò la curva con una certa qual grazia, senza perdere una sola pedalata. Abile, furbo. E seduto tranquillamente in posizione retta sull'esile sellino della sua bicicletta, passò tra i pali d'acciaio e sotto il bordo inferiore del tabellone doppio. La punta del suo cappello sfiorò di qualche centimetro la barra d'acciaio orizzontale. La betoniera lo seguì. E quando udì lo schianto, Doc rallentò e girò su se stesso, verificando il danno. Spettacolare, ma non serio. Prendete nota. Spettacolare, ma non serio. I due tabelloni erano stati abbattuti, sdraiati sulla cabina e sulla betoniera che ancora miscelava. Dal centro del groviglio si alzò uno sbuffo di vapore che fischiava come un geyser dal radiatore danneggiato della unità 17 della Duke City Ready Mix Cement and Gravel Company. Doc vide il camionista strisciare dalla cabina nell'ombra dei cartelloni. Eccetto un naso sanguinante, contusioni e lacerazioni minori e un leggero stato di shock, l'uomo sembrava essersela cavata con poco. Il lamento doppleriano delle sirene che si avvicinavano giungevano sul posto e si spegnevano con lo sbattere delle portiere. La polizia cominciò i rilevamenti del caso. Soddisfatto, Doc si allontanò pedalando incolume. La cena non fu cosa tanto semplice. Il dottor Servis amava mangiare, ma odiava cucinare. Dopo aver fatto su e giù per la cucina con in mano un pacchetto di bracciole di maiale dure come quarzite dopo 4 settimane di soggiorno nel freezer, decise: ma dove cazzo è mia Bonnie? Si decise per una scatola di fagiolini, un po' di insalata di pollo lasciata da Habzuk sempre 4 settimane fa e una bottiglia di birra. Accese la TV per vedere il notiziario serale con Walter Cronkite e i suoi amici. Si sedette al tavolo e studiò ancora una volta la cartolina che aveva trovato nella sua cassella di posta. Caro papà Doc, qui ci divertiamo molto nei boschi a raccogliere fiori e guardare i cervi. Il generale Avic che ci segue ovunque. Andiamo, ci manchi a tutti e ci vediamo a Page, Fry Canyon. Tra 1 o 2 settimane ti telefoneremo. Baci, Butch and Bonnie and Seldom Seen Slim. La cartolina era stata imbucata al lago Jacob, Arizona, e sul lato illustrato mostrava una veduta di un pascolo montuoso con cervo, mulo e più pitremoli nel verde dell'estate. Odiava la sua solitaria cena da scapolo, sentendosi freddo e gommoso come l'insalata di pollo. Gli mancava la gang, gli mancava l'aria vivida, gli mancavano le grandi distese selvatiche, i piccoli fiori gialli, l'odore del fumo di ginepro, la sensazione della sabbia e della pietra arenaria tra le mani. Gli mancavano i piaceri, l'azione, la soddisfazione del lavoro fatto bene. Sostieni i tuoi Eco Raiders locali. Non i Riders on Storm, ma più di tutto gli mancava Bonnie, la Habzug più deliziosa apparsa sulla terra. Guardò quindi le notizie, news, uguali a quelle del giorno prima. La crisi generale procedeva stabilmente, niente di nuovo tranne le pubblicità piene di arte furba ed ecopornografia. Scene dei canali della Louisiana, strani uccelli in volo rallentante, cipressi con barba di bromeliace. Sopra la scena primitiva la voce narrante del potere, trasudante sincerità, si sperticava nell'elogio di sé. La Exxon Oil Company, la sua pulizia, la sua cura maniacale e complicata per tutte le creature e le cose selvagge, la sua preoccupazione per i bisogni dell'uomo. Tornando dal frigorifero con in mano la seconda birra, Doc si fermò un istante di fronte allo schermo del televisore. Un'inquadratura in campo lungo di una piattaforma di produzione offshore, la musica che cresceva di volume sulla frase conclusiva, le parole Pensavamo le facesse piacere sapere che sfilavano attraverso lo schermo. Troppo per Doc, improvvisamente gli sembrò tutto troppo. Tirò indietro il piede destro con lo stivalone e colpì con un calcio nell'occhio l'immagine quadrata. Lo schermo implose ed esplose con un suono simile allo scoppio di una grande lampadina. Un bagliore azzurro riempì la cucina e morì. Nell'istante della sua nascita, frammenti e schegge di vetro fluorescente scivolarono lungo le pareti. Doc si fermò a contemplare l'orrenda cosa che aveva fatto. «È così, io rifiuto Marshall McLuhan», mormorò. McLuhan, il sociologo teorico delle comunicazioni, si sedette di nuovo al tavolo. Il puzzo di solfato di zinco galleggiava nell'aria. Finì la sua cena e scaricò i piatti sulla pila di piatti sporchi che già trasbordava dalla lavapiatti. Li ammassò, allineandoli con malagrazia sul coperchio. Un rumore sinistro di vetro rotto. Diede da mangiare al gatto di Bonnie e la cacciò fuori. Lasciò la cucina, si mise a sedere in salotto e si accese un sigaro, affondando lo sguardo attraverso la grande finestra ovest nella fosca magnificenza, come un letto di ceneri ardenti. Fosca magnificenza della città, sopra di essa e oltre il Rio Grande, la mezzaluna stava sospesa come platino nel cielo serale, illuminando la città di nuovo, fiume e pianura desertica. Doc pensava ai suoi amici lontani da qualche parte verso nord e ovest, tra le rocce, sotto quella luce elementare, impegnati a fare quanto serviva, mentre lui spendeva inutilmente la sua mezza età. Il diavolo trova lavoro per le mani inoperose. Il dottor Service raccolse il giornale e vide la pubblicità che occupava l'intera ultima pagina. Salone nautico, Duke City Ice Arena. Pensò che poteva essere una buona idea andare a vedere le nuove houseboat domani o dopodomani, ma comunque presto. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Punto. Or.